Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Charlie Chaplin partecipò a un concorso per sosia di Charlie Chaplin a Monte Carlo e arrivò terzo. Quella è una storia assurda. Sono disponibile anch'io ad aprire la porta della mia azienda dei Rom a qualche Rom che voglia venire a lavorare, come l'ho già fatto con i carcerati, li abbiamo recuperati e non è stata una cosa facile. Librandi dice che lui aprirebbe le porte della sua azienda. Purtroppo la cronaca di tutti i giorni, anche da nord a sud, che non hanno il lavoro, dicono che spesso e volentieri sono i Rom ad aprire le porte delle aziende, negozi, le portiere delle auto, a scippare in metropolitana. Permesso, perché ce lo diciamo? Ci sono dei premi Nobel, ci sono dei grandi giocatori, delle persone molto serie. Sì, vabbè, quindi, ce l'abbiamo avuto anche noi, anche un campione di boxe. Sì, no, però, c'è anche un premio Nobel. Io non ho mai visto un leghista premio Nobel, non so, mi dica lei. Voi avete la luce qui? Solo con i generatori, con i gruppi. Perché non mi stereo, perché io sono... Come sei ricercato? Spero che stia guardando, oltre che Salvini, anche la Polizia di Stato e i Carabinieri, perché uno che va in onda dicendo però non riprendetemi perché sono un ricercato e si sa dove abita abusivamente, quindi cortesemente andate a pigliare quel ricercato. Oh, Matteo Salvini si trasforma anche in un capo ispettore di polizia quando vede un ricercato ripreso nella trasmissione di Paolo Del Debbio, questo Rom che dice non riprendermi che sono ricercato, e dice beh signori l'indirizzo è questo e andare a prendere, grazie. Ciao Ruspa, a chi doni l'8 per 1000 e il 5 per 1000? Vabbè, questo è lo spot che mandiamo in onda per convincere, adesso ci diranno di essere leghisti, mannaggia, devo subito rimediare, devo chiamare in causa subito Aurora Lussana. Buongiorno Aurorina, come stai? Buongiorno caro Milan, che bel risveglio con Nabucco. Hai visto, ti ho svegliata col Nabucco, sì, ti allora ho svegliata con le ruspe. No, io ci avevo sul Magnificat qua di Bacca, perché sai che in attesa che il muezzin intoni la preghiera anche a Cantù, io devo sentire un po' di musica sacra la mattina. Non esiste il muezzin a Cantù. No, appunto, no, appunto, non esiste. Ti porti avanti. Finché resistiamo. Okay. Te lo mettiamo noi, dai, meglio. Eccola qua. Salvini è l'uomo che sussura le ruspe. Mannaggia, ragazzi. Questa è veramente... di politici così. Questa è avanguardia pura. Questo è futurismo. Però almeno se ne parla. C'è la possibilità di dare oltre l'8 per 1000 alla nostra chiesa, insomma, a chi ha una chiesa, sì, che ha sottoscritto un'intesa con lo Stato. Ma quale chiesa? La chiesa leghista? Le chiese ci sono in Italia che hanno sottoscritto, sì, l'intesa con il nostro Stato, tranne gli islamici che non sottoscrivono l'intesa perché non vogliono riconoscere i diritti e doveri della nostra civiltà. Poi c'è il 5 per 1000 per le, sì, onlus, e poi il 2 per 1000. È partita, è partita. Allora, voglio subito convincere anche Umberto Brindani, direttore di Oggi. Buongiorno direttore, come stai? Buongiorno Alessandro, buongiorno Aurora. L'avevi sentito questo spot di Salvini? Te lo faccio risentire, dopo il Parlamento. Apriamo prima il Parlamento, dai, che... Adesso non so se hai capito, ma Salvini sta facendo la pubblicità per richiamare il 2 per 1000 ai partiti. Tu daresti mai il 2 per 1000 a un partito, Brindani, qualunque esso sia? Mai, purtroppo mai nella vita, purtroppo per i partiti. Però devo dire che con Nabucco hai accontentato anche me, che non sono leghista, perché vedi, un mio compaesano. No, diciamo. Ma infatti, ma adesso perché appropriarsi del Nabucco, questa cosa dei leghisti è veramente insopportabile. Poi io sono in lutto per Brescello. Brescello, sì. Il paese di Peppone, Don Camillo, sciolto per Andrangheta, sì. Ma vi rendete conto? Succedono di quelle cose. Però Brindani, prima senti qui lo spot di Salvini per convincere a pagare il 2 per 1000, protagonisti lui e... Ciao Ruspa, a chi doni l'8 per 1000? E il 5 per 1000? E il 2 per 1000? Più lo sento, più mi scadascio dalle risate. Scusa. Ruspa! No, scusa, allora, si sono aboliti i finanziamenti ai partiti, si sono aboliti i rimborsi elettorali. Ma chi è che deve vuoi finanziare ma giusto, i partiti? Giusto, ma sì, ma quello che vuoi, ma è lo spot. I cittadini che liberamente decidono quando vanno a fare la Brindani, Salvini, parla con la Ruspa, parla. E la Ruspa gli risponde. Però che strano che sei un maschio e non ti piacciono le ruspe, né Milan? No, tutti i maschi che conosco io. Ma figurati, a mio figlio ho regalato una ruspa. Una delle cose. Adesso vi appropriate anche della ruspa, non l'ho capito. Basta. Vabbè, Brindani, dopo questo spot non sei un po' più convinto? Sì, mi ha assolutamente fatto cambiare idea, come no. Vabbè, perché la cosa incredibile è che la Ruspa gli risponde, io non mi do pace di questa cosa, perché lui, sai, le persone possono parlare con i muri, ma lui parla con la Ruspa è reattiva quando... Ma chi è il creativo? Non lo so. Però è un comunicatore straordinario, da adesso però tutti sanno che esiste il 2 per 1000 da devolvere ai partiti. È vero, ce ne eravamo dimenticati. Era un'invenzione di Enrico Letta, se non sbaglio. Effettivamente sì, è un'invenzione di Enrico Letta. Allora, cari ascoltatori, oggi effettivamente non c'è una notizia che si impone con più delle altre, però ci sono varie notizie qua e là. Una, per esempio, è quella di Brescello. Ma Brescello, sciolto per 'Ndrangheta, perché, direttore, vabbè, tu sei di quelle parti, no? Beh, sai, Guareschi viveva a Busseto e poi ha ambientato, diciamo, i racconti di Peppone e Don Camillo in questo paesino del Reggiano, no? Sì. Poi anche tutti i film sono stati ambientati lì. Il fatto che sia il primo comune dell'Emilia-Romagna sciolto per mafia è una cosa che lascia completamente basiti, insomma. Poi non conosco i fatti, non so se Aurora li conosce meglio di me, però, o se tu li conosci meglio di me. Però no, io conosco meglio la storia dei popoli nomadi della Giura piuttosto che le vicende dell'Andrangheta. No, guarda, talmente forte il mio disprezzo verso la colonizzazione mafiosa delle nostre terre. Ci sono tanti che vengono da Cutro, il paese, quello. Ci sono anche degli infami del nord che fanno gli affari con questa sottospecie di umanità, che sono i mafiosi, però eccola, sì. No, comunque scusami, oggi è il 21 aprile, allora, come fai a dire che non ci sono notizie oggi? E cosa c'è il 21 aprile? Allora, a parte il Natale di Roma, dire... Sei un padano e quindi non, anche tu non festeggi. No, è il Natale di Roma. Noi siamo tre padani, quindi vabbè. Comunque, no, è il compleanno della regina. Oh mamma mia. Va bene. 90 anni. Ma la vera notizia, la vera notizia ci sarà fra poco, perché fra poco Berlusconi dovrà sciogliere. Molla Bertolaso. Molla Molla Bertolaso. Oggi forse Berlusconi molla Bertolaso. Mai mettersi contro una donna gravida, ragazzi, ve lo consiglio. Mai mettersi contro una donna gravida, ragazzi. Capito? Perché Aurora Lussana si sa, ma aspetta, stai tranquilla. Sono perché il contest per scegliere il nome di tua figlia, guarda che. Umberto, lo sai che è incinta Aurora Lussana? Sì, sì, il direttore sa tutto. È che avevamo già partecipato a un primo contest. Ma ci sarà ancora. Comunque, a Brescello è stato sciolto tutto per mafia, perché c'è anche una foto del sindaco, ex sindaco a questo punto, sì, Coffrini, del Partito Democratico. C'è una foto, oggi l'ho vista, non so se sul Libero o da qualche parte, in cui di spalle parla con il fratello del boss Nicolino Grande Aracri, della famiglia Grande Aracri, 'Ndrangheta. Insomma, eccolo qua, il sindaco Coffrini, parla. È gentilissimo, è uno molto tranquillo, non è che sto parlando con Francesco, uno ha sensazione di tutto, meno che sia quello che dicono che è. Lui è uno molto composto, educato, sempre vissuto a basso livello. Quindi secondo lei Brescello è un paese con problema di criminalità o no? No. No, sciolto. Parlava di Francesco Aracri, fratello, una persona tranquilla, che per carità sarà una persona tranquillissima. Educata e di basso livello, che vive. Quindi problema di criminalità, no, sciolto per mafia. Ieri questa è la decisione del Ministero dell'Interno. Che dobbiamo fare? Sono cose che capitano, come dice in quel famoso film. Però, caro Brindani, io vorrei chiedere questa cosa facendo un po' un passo indietro a ieri. Renzi, teme secondo te qualche altra inchiesta per cui è il momento di attaccare i giudici? Oppure è normale da 25 anni che vediamo che tra politica e magistratura c'è qualcosa? No, soprattutto è normale il fatto che Renzi attacchi la magistratura, perché l'ha fatto forse dal primo minuto. Non dimentichiamoci la grande lite con i magistrati sulla questione delle ferie, no? Una delle ferie dei magistrati, che sarebbero troppo lunghe, 45 giorni all'anno invece dovrebbero essere 30. Quello fu forse il primo scontro, diciamo, il primo atteggiamento un po' demagogico da parte di Matteo al governo, che però incontrò il favore proprio della popolazione, perché tutti pensano che i magistrati lavorano poco e lavorano male. Ieri Davigo ha detto che sono quelli che lavorano di più in Europa, il che viene da pensare a dire chissà quanto lavorano a questo punto in Germania, in Francia, cioè praticamente nulla. Lavorano, secondo me lavorano poco, lavorano male. È di ieri la notizia dell'ennesimo flop dell'ultima inchiesta del sindaco di Napoli, De Magistris. Non c'è una sola inchiesta di De Magistris che sia arrivata a conclusione positiva, diciamo, per lui, perché sono sempre stati assolti tutti. Ogni giorno ci sono notizie di questo tipo, quindi è facile dal punto di vista del capo del governo. Poi naturalmente ci sono poi i dietrologi che dicono: beh, tutto questo è sempre una parte del vecchio patto del Nazareno, no? Renzi Berlusconi. Vabbè, non so, tu Aurora, vedere, non so, ti sembra un Renzi simile Berlusconi? No, è così, è connaturato, per chi come me, insomma, ha cominciato a occuparsi di politica all'inizio degli anni 90, proprio ontologico nel nostro sistema politico, no, questo scontro tra la politica. Bisogna capire chi ha il primato. Per me il primato spetta alla politica, non alla magistratura, che deve essere indipendente. Negli altri paesi però dipendono dall'esecutivo. Sì, però diverso. Sai cosa dice Davigo? L'avrei letta anche tu ieri, intervistata da Travaglio. Scatenato. Dice che la politica, la magistratura interviene perché la politica non è in grado di fare pulizia. Oggi vedo che Il Fatto apre con il PD che ha 124 indagati e imputati, 101 amministratori locali, 23. Sì, no, sicuramente nervosetto Renzi con i magistrati, però dobbiamo deciderci, ripeto, chi spetta il primato. Alla politica, quindi puoi dirlo chiaramente, oggi stai con Renzi. Insomma, dai, bisogna, devi avere il coraggio di andare fino in fondo, no? In questo caso il fiorentino ha ragione. Com'è che lo chiami tu? Dipende, il parolaio, lo statista. pazza, l'illusionista. Fermati qui. Di solito lo chiamavi, com'è che lo chiami, il principe fiorentino? No, come lo... Ah, sì, no, vabbè, il principe del Machiavelli è tutta un'altra roba. Principe però sì, vabbè, lui si crede, sì, certo, ovviamente, essendo un fiorentino si crede di essere il principe di Machiavelli. Principe di Machiavelli, va bene. Va bene, intanto lo sai che i nostri ascoltatori al 349-238-6666 in massa, almeno 5 o 6, hanno detto: ma certo, eccolo qui il nome per la figlia di Aurora. Vai. Lussana. Vabbè, ma è ovvio, Ruspa, cioè nel senso è talmente Ruspa. È talmente chiaro. È movimentazione da terra. No, io stavo leggendo del bonus bebè, scusate, no, vi ascolto, però sì. Leggo il giornale. No, il bonus bebè gli stranieri, guarda qui. Ci ascolta e legge il giornale. Eccola. Allora, tienitela lì per dopo il traffico. Sì, c'è una sentenza a Bergamo che ha stabilito che anche gli stranieri, una straniera che ha un permesso di soggiorno non temporaneo, diciamo, non quello di lungo corso, ha diritto per la legge di stabilità al bonus bebè. Che facciamo? La discriminiamo, Aurora? La discriminiamo? No, ma figurati, tanto alla fine finiremo come in Svizzera, che gli islamici non vogliono neanche stringere le mani alle donne. No, perché ormai siamo guarda, guarda che anche quella c'è stato uno sviluppo. Tra poco, dai, tra poco vi racconto tutto. Tra poco. E ora Milan, ma non s'affogo, o s'affogo! Volevo dire una cosa, quando c'era Berlusconi tutti questi non si fanno le intercettazioni, è sbagliato, non lo dicevano, no? C'era sempre un perché per giustificare, andava tutto bene, ora guarda caso non va bene. Signore e signori, scaffata Villa in capo, un referendum non è altro che una presa per il culo per gli italianum. Milan, se vuoi che il popolo italiano partecipi al 100% a un referendum, basta farne uno per cacciare la Juventus dal campionato italiano. Ciao Milan, comunque dico con Salvini che non stava parlando con una ruspa, eh. Il rombo che si sente lì è di un Harley Davidson, neanche il rumore sanno fare. Questo è un bel giallo, Brindani, direttore di oggi. Dovremmo chiamare qualche perito fonico. Sì, certo. A capire. Salvini parla con le moto, eh. Esatto, pure con le moto parla veramente con i muri. Scusa, oggi chiamo Radio Padania, glielo chiedo. Infatti, dite che non è, ma no, ci scrivono, sono un umorista professionale. Beh, certo, ci scrivono che San Francesco parlava con gli animali, quindi voglio dire, perché non con una ruspa? E quella della Juventus non è male, Brindani, si potrebbe fare un referendum su questo. Sì, guarda, non parliamo di calcio stamattina, io sono interista. Meno male che c'è l'Inter, mi sono svegliato alle 5, ho detto, come sempre il mio primo pensiero è negativo alle 5. Ho giocato stasera. Poi ho visto, ho detto, ma è meno male che c'è l'Inter, e subito ho mandato questo hashtag su Twitter che ho inventato. Ma vogliamo parlare di Totti per un secondo, celebrare questo personaggio pazzesco. Dai, celebra Totti. Fallo celebrare anche Aurora Lussana, romano di Roma, proprio. Sì, vabbè, una grande storia d'amore, lui e la sua Roma, bello, mi piace. Ragazzi. Ti piace. Non riesce a lasciare le cose che ama. Bravo, Bravo. Va bene. Allora, leggevo sul Messaggero, però durante il traffico, questa, attenzione, questa è una grande novità. Il Messaggero ha questo scoop. Renzi avrebbe trovato il sistema. Sapete che vuole comunicare qualcosa in vista delle elezioni per dire agli italiani sì, cioè un taglio fiscale, un qualcosa, no? L'ha trovata. Secondo il Messaggero l'ha trovata. Sentite qui. Sai il bonus da 80 euro? Umberto Aurora dice. Sì, forse sì. Vuole portarlo a 100. 100 euro! Rilanciamo! 100 euro! Potrebbe essere questa. Cioè vorrebbe restituire agli italiani quello che gli prende col canone. Esatto, bello, non male questa. Pensavate di pagare il canone? No, ma non a tutti, quelli che prendono gli 80 euro. Pensavate di pagare il canone quest'anno e io vi do 100 euro. 100 euro. Oh, 20 euro in più ti esce una bella formagella di Formai de Mut. insomma, questo mese il canone ve lo pago io, 100 euro e via, insomma. Vabbè, insomma, questo è quello che starebbe studiando secondo il Messaggero. Però adesso Aurora, dai, dici questa cosa degli stranieri, questa cosa, dai, dici cosa c'è, no, che lo non so va, che, il bonus, no, bebè. Lo so, in attesa di un'Europa afroasiatica, sì. Leggiamo che nella civilissima Svizzera, nella più antica democrazia del mondo, si stanno muovendo per fermare le naturalizzazioni di famiglie musulmane che si rifiutano di integrarsi. La notizia è questa, infatti la notizia è questa. Ci sono due studenti musulmani che non stringono la mano alla preside in Svizzera. Mm-mm. E allora la Svizzera, io mi ricordo questa notizia fu data qualche tempo fa, mi aveva fatto arrabbiare, la Svizzera ha deciso che non naturalizzerà questi studenti, ha bloccato la loro naturalizzazione. Sì, bene. Resistiamo. Ma io vorrei chiedere una cosa ad Aurora. Quando leggi il giornale e vedi la parola stranieri, scatti come fu un riflesso pavloviano, cioè la parola straniera. Ti incattivisci subito proprio. Ma no, perché adesso vabbè, voi siete due xenofoli e quindi probabilmente vi eccitate quando leggete la parola straniera, ognuno poi ha la reazione emotiva. Brindani, cervello rettiliano. No, al di là di Pavlov c'è un cervello rettiliano primordiale che gestisce poi alla fine i nostri istinti. No, perché uno xenofilo si eccita con gli stranieri, è legittimo. Esatto, è legittimo eccitarsi così, Brindani. Io invece, diciamo, sono anni che seguo i danni dei sistemi multietnici e multiculturali. E quindi non si eccita con non più di tanto, mi eccito per altre robe. Per altre robe. Beh. Vogliamo per quali robe? Che bel nome, Umberto è sempre un bel nome per me, sapete. Vuoi chiamare tua figlia Umberto? No, no, sarebbe bellissimo nome. Sarebbe abbastanza. Sentiamo qua come potresti chiamare tua figlia. Attenzione, perché il contest continua. Al 349-238-6666 mandateci via WhatsApp, via audio, gentilmente. Come chiameremo, non come chiamereste, come chiameremo proprio ufficiale la figlia di Aurora Lussana. Lussana, fa la brava, la tua tusa, chiamala Giustina, come chiamani Tusanna la bergamasca in certi casi. Gade chiamala Pina l'Aurora. La figlia della Lussana si può chiamare in una maniera sola, Ruspa. Ecco. Immacolata Concetta Crocifissa, come da buona usanza bergamasca. Non male, Immacolata Concetta e Crocifissa. Potrebbe essere una bella comunque soluzione. Mi fa sempre impressione la figlia della Lussana, c'è anche un padre sta creatura, no, perché sembra che ancora sta storia, il padre verrà informato per tempo di come dovrà chiamarla, non c'è rischio che lo sappia all'ultimo, almeno 10 giorni prima glielo comunicheremo ufficialmente. Sì, no, giusto, perché sennò il Brianzolo povero anche lui, insomma, ecco, i diritti, no, giusto. Ecco, è arrivato alle 6:52 o il bel Milan ospita uno straniero a casa tua? Eccolo là. Eccolo alle 6:52. Questi sono i danni di Aurora Lussana. Eccolo qua. Anche però, Brindani, una splendida amica moldava che non so perché, secondo me, lo ospiterebbero tu. Ecco, vedi, per esempio, se non sa dove andare, Io, per esempio, Alessandro, non è ancora arrivato invece il messaggio che dice Imarò manca, però secondo me potrebbe arrivare tra poco. Ogni tanto arriva, non ti credere, quando uno parla, non so, i rapporti con l'Egitto, per il caso, arriva il messaggio. Allora, io vi devo così mollare, Umberto Brindani, con il numero cosa di oggi. Cosa devi fare, Milan? Devi ascoltare Radio Padania? No, devo andare a finire di leggere i giornali e prepararmi per la rassegna stampa alle 7:20 su Radio 24, la radio più bella del mondo. Capisci? Parla qua della legittima difesa. Ah sì, parla, ci sarà anche la legittima difesa. Questa è una grande battaglia. Sei scatenata, oggi i giornali sembrano fatti veramente da Salvini praticamente. Va bene, ci sarà anche a parlare di legittima difesa. Vi devo salutare, un abbraccio. OneExpress.it. Pallet Network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. 7:20 minuti, oggi c'è un'alba meravigliosa a Milano, c'era un'alba meravigliosa a Milano, bella tutta di un colore rosa, tendente al rosso. Evviva, cari ascoltatori, sono le 7:20, l'ho già detto, in punto però in questo momento a Radio 24, radio ufficiale anche per l'orario mondiale, e quindi regolate i vostri orologi in base al nostro orologio, al nostro clock. Siamo pronti a leggere i giornali? Sì, la cosa più bella del mondo. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. È giovedì 21 aprile, anche noi facciamo gli auguri a Sua Maestà la Regina Elisabetta, 90 anni e basta. Oggi la carta costa, non andrà la Regina Elisabetta. Allora, oggi è il classico momento, il classico giorno in cui non c'è una notizia che si imponga sulle altre, quindi ogni giornale davvero fa delle scelte di apertura diverse. La casa per il Sole 24 Ore, per i nuovi mutui, via alle regole europee. In caso di vendita forzata, l'eccedenza resta all'ex proprietario. Anche il giornale sceglie questo tema, via libera alle case pignorate, è il titolo un po' più brutale, alla faccia dei risparmiatori. Mentre il Messaggero ha la notizia economica più interessante, perché sul tavolo di Renzi, secondo il Messaggero, ecco l'ipotesi segreta che verrà annunciata a breve. Bonus a 100 euro, il piano segreto. Cioè Renzi annuncerebbe tra qualche giorno, anche in vista delle elezioni, di alzare il bonus da 80 euro concesso ai lavoratori che guadagnano fino a 26.000 euro lordi l'anno a 100 euro, da 80 a 100 euro. Il Corriere della Sera invece, piano di Bruxelles per i migranti con gli euro bond. Per la Stampa, sindaco di Roma, rissa nel centrodestra, Forza Italia scarica Bertolaso. Repubblica, legittima la difesa contro i ladri in casa, ma il governo si spacca. Come vedete, temi più svariati. Per Libero, ai pensionati niente bonus, agli stranieri con bebè sì, siamo servi in casa nostra. Mentre il Fatto Quotidiano torna sulla polemica magistratura politica, ecco perché Renzi attacca i PM, il PD ha 124 indagati e imputati. Allora, però parto da che cosa? Due interviste televisive, diciamo così. Il Sole 24 Ore con Andrea Biondi e Marco Mele intervista il direttore generale della RAI, Campo Dall'Orto. Titolo dell'intervista che trovate a partire dalla prima pagina, poi sviluppata a pagina 27. La RAI deve meritarsi il canone. È questa la prima risposta a secco sulla quale sia la sfida più importante per la RAI. Bisogna meritarsi il canone. Così Campo Dall'Orto, che dice: il nostro è un ruolo diverso, siamo il servizio pubblico italiano, in quanto tale abbiamo il dovere di non rincorrere l'audience a tutti i costi, anzi pensare a un'offerta complementare a quella della TV commerciale. Poi dà qualche numero: per il 2015 l'azienda chiuderà in rosso, ma meglio del budget, avremo una perdita intorno ai 20 milioni di euro, mentre per i prossimi anni, se non ci saranno sorprese sul canone e non interverranno altri elementi esterni di sistema, l'azienda avrà la forza per portare avanti questo piano triennale. Poi dice Campo Dall'Orto, riguardo al canone RAI, che passa da 113 a 100 euro, ci aspettiamo un tasso di morosità dell'8% a differenza del 27% di oggi. L'evasione oggi attorno al 27% si conta di farla scendere all'8%. Conferma che dal 1 maggio, dunque tra poco, toglieremo le pubblicità a Rai Yo-Yo, il canale per i bambini. Questa secondo me decisione sacrosanta, perché non ne posso più di vedere i miei figli a dire: mi compri questo, papà? No, è la pubblicità, non va bene, non farti ingannare, ma è buono, dico. No, vabbè, insomma, lasciamo stare. Comunque, via la pubblicità a Rai Yo-Yo, il canale per i bambini. E poi annuncia anche: stiamo investendo 200 milioni di euro nelle fiction. Questa l'intervista al direttore generale della RAI sul Sole 24 Ore. Tra l'altro però c'è la polemica proprio in questi giorni, in questo oggi, sui giornali, perché proprio ieri, tra l'altro nascondendolo, questa è l'accusa di uno dei membri del consiglio di amministrazione, al consiglio di amministrazione RAI, per esempio Franco Siddi ha detto non ne sapevamo nulla, sono state fatte delle nomine. Una crea qualche polemica sui giornali, Libero per esempio fa la polemica, ma anche il Giornale. Francesco Merlo da Repubblica passa alla RAI, vice direttore delle news, in pratica va a affiancare Carlo Verdelli. Due vice direttori, uno è Francesco Merlo, l'altro è Pino Corrias, dirigente esperto di fiction. Poi Dario Antonelli dall'ANSA, Libero attacca, insomma è la RAI di sinistra, un altro amico di Renzi assunto in RAI, Francesco Merlo, e qualcuno dice ma insomma è la RAI di Repubblica, vabbè, le polemiche che ci sono. Mentre dicevo, due interviste televisive, perché parla anche, e quando lo fa sempre solo con Daniele Manca e sul Corriere della Sera, parla Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, e proprio nel giorno tra l'altro in cui è arrivata una maxi multa dall'antitrust per un accordo illecito sulle gare di Serie A proprio a Mediaset, 51,4 milioni. Ebbene, parla Marina Berlusconi, che parla un po' a tutto campo dell'editoria, critica anche l'operazione Repubblica Stampa, una logica industriale ce l'ha, solo che così com'è viola le norme sull'editoria, dice Marina Berlusconi. Ma vorrei aggiungere una riflessione: una simile concentrazione di potere mediatico in quali mani va a finire? In quelle del signor De Benedetti, editore che con la sua faziosità ha avvelenato 20 anni di storia italiana, già miracolato da una sentenza scandalosa che ci ha espropriato 500 milioni costringendoci praticamente a salvarlo dal crack. Insomma, Marina Berlusconi e De Benedetti, si sa, non si sono mai amati. Poi dice: noi abbiamo fatto l'accordo con Vivendi, Mediaset Vivendi, per crescere, altro che disimpegno. E ancora esclude che il tema Telecom sia sul tavolo. Il cerchio si chiuderà con Telecom, chiede il Corriere, e Marina Berlusconi risponde: il tema Telecom non è sul tavolo. Mentre dice: procede bene, ma è prematuro parlarne, la acquisizione dopo RCS di Banzai Media. Sulla multa Mediaset dice: è un provvedimento incomprensibile. Con Premium Mediaset ha rotto un monopolio, ha offerto al pubblico un'alternativa, ha tenuto alto il valore dei diritti del calcio, ha investito centinaia di milioni di euro, valorizzato il digitale terrestre per l'intero paese. Insomma, parla Marina Berlusconi. Il titolo è: troppi pregiudizi su di noi, diventare più grandi è inevitabile, così sul Corriere della Sera. Vabbè, a parte queste interviste legate alla TV, se volete al mondo dell'editoria, vi segnalo il dibattito sulla legittima difesa, che è ripartito, tanto che Repubblica l'ha messo in prima pagina. E perché? Perché c'è una proposta del PD a firma David Ermini per rendere la legittima difesa un po' più a favore delle vittime, diciamo così, del furto in casa. No? Più facile sparare se i ladri entrano in casa. La nuova legittima difesa, pagina 2, questo era il titolo di Repubblica, dovrà decidere certo il giudice caso per caso, ma David Ermini in un'intervista a pagina 2, sempre di Repubblica, definisce così la nuova legittima difesa. Semplificando, per il PD, chiede Liana Milella, se il ladro mi terrorizza, io sono legittimata a difendermi con un'arma e non sono colpevole? Sostanzialmente sì. Se un ladro entra in casa, il padrone non deve sapere per forza se è armato o meno, perché già la violazione di domicilio può creare in sé un turbamento tale da far ritenere all'aggredito di essere legittimato a difendersi con un'arma, quindi non può essere discriminato. Beh, insomma, sarebbe un cambiamento importante, a mio modo di vedere, ma personale, giusto, e cioè solo per il fatto di subire un'effrazione in casa, da parte di qualcuno, potrebbe dare diritto alla persona proprietaria di casa di usare un'arma se ce l'ha, anche se colui che è entrato o coloro che sono entrati non hanno di per forza un'arma. E mi sembra il dibattito che c'è sui giornali, e Repubblica dedica due pagine a questo, mentre l'articolo che mi fa pensare della giornata, l'articolo da Mani sul Volante, oggi va a un tema che mi è caro e di cui i giornali parlano spesso e che oggi La Stampa mette a pagina 3, lo spreco di cibo. Fa veramente impressione vedere le foto. La Stampa è andata con Maurizio Tropeano a Santià, in provincia di Vercelli, nell'impianto di compost, dove si trovano chili, chili di verdure, pane, formaggi, in genere buttati dalla grande distribuzione, che devono semplicemente rispettare delle leggi, a volte leggi ottuse. I supermarket buttano tonnellate di cibo, ma la metà è ancora commestibile. Ci sono i numeri dello spreco di cibo: 5 milioni e mezzo di tonnellate l'anno, 12 miliardi buttati al vento in Italia. Ma il potere evocativo dei dati è poca cosa di fronte a quello delle immagini. Effettivamente le foto fanno impressione. Lo vede? Ecco il pezzo di formaggio ancora commestibile. Così Luca Rossi, direttore dell'Istituto per le Piante e l'Ambiente del Piemonte, mi mostra un pezzo di formaggio e su quel pezzo di toma non c'è alcuna traccia di muffa. La crosta è perfetta, non ha l'odore di cibo andato male. Peccato non si possa più mangiare. E così tranci di pizza rossa, bianca, formaggio stagionato, peperoni, sedani, limoni, mele. 800 chili raccolti, forse una tonnellata solo in un giorno. E osservare tutto quel cibo scartato fa star male. Ed è ancora peggio quando Rossi, con occhio esperto, si china per raccoglierne qualche campione, dimostra che è ancora buono. Mentre il direttore di questo istituto parla, il suo presidente, Igor Boni, in una decina di minuti, senza scavare, raccoglie prodotti che potrebbero essere ancora conservati in frigorifero e cucinati. Non hanno un brutto aspetto, dice, dopo due viaggi dentro i compattatori. Eccole qua, le immagini sulla stampa del cibo buttato via ogni giorno. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il miglior lettore degli articoli di Celentano. Vabbè, gli articoli di Celentano. Allora, cari ascoltatori, veniamo alla lettura ancora degli articoli, a cominciare da che cosa? L'apertura del Messaggero. Beh, oggi il Messaggero ha la notizia, forse se confermata, più clamorosa della giornata, a mio modo di vedere. L'apertura, Andrea Bassi racconta che c'è un piano segreto elaborato da Matteo Renzi per quel famoso annuncio atteso poco prima delle amministrative, diciamo a maggio ormai, per cercare, insomma, di riconquistare un po' di fiducia negli italiani. E l'ipotesi che sta valutando sarebbe questa: far salire il famoso bonus da 80 euro concesso ai lavoratori dipendenti che guadagnano fino a 26.000 euro lordi l'anno a 100 euro. Eccolo qua, il piano ipotesi bonus a 100 euro e allargato alle pensioni minime. Dunque aumentarlo di 20 euro e allargarlo alle pensioni minime. Andrea Bassi, pagina 3 del Messaggero. Il progetto è sul tavolo della squadra economica di Palazzo Chigi. Per adesso è solo una delle ipotesi tra le varie del piano di alleggerimento fiscale che il governo ha intenzione di varare dopo l'estate. Al momento si tratterebbe delle idee tra le varie che più avrebbe suggestionato il presidente del Consiglio Renzi, per varie ragioni. La prima è che è facile da comunicare. La seconda è che ha già funzionato una volta. E dunque si tratterebbe di ritoccare verso l'alto il bonus da 80 euro concesso ai lavoratori dipendenti che guadagnano fino a 26.000 euro lordi l'anno. L'ipotesi sarebbe quella di far salire la cifra fino a 100 euro. Questa sarebbe solo la prima parte del progetto. La seconda prevede che il bonus possa essere allargato anche ai pensionati al minimo, quelli insomma che percepiscono assegno mensile inferiore a 500 euro. Quanto costerebbe questa doppia opzione? Secondo le stime che circolano a Palazzo Chigi, l'aumento del bonus per i lavoratori dipendenti 2,4 miliardi, ai quali andrebbero aggiunti un altro paio di miliardi per la misura a favore dei pensionati, dunque circa 4 miliardi e 400 milioni. Questa è la notizia del Messaggero, chissà se è vera, se verrà confermata, è un'indiscrezione che circola. Sui giornali ancora c'è la polemica su quello che è il rapporto magistratura-politica, gli strascichi dell'intervista, prima l'intervento di Renzi al Senato, l'intervista in qualche modo di risposta di Davigo ieri sul Fatto Quotidiano. E secondo il giornale lo spettro di nuove inchieste dietro l'attacco di Renzi ai PM. L'affondo del Premier, racconta Fabrizio De Feo a pagina 5, è frutto della strategia chiara. Quando sente il fiato sul collo assume l'atteggiamento di sfida. E allora il giornale dice: ha dei presagi di un'estate calda, e cioè quindi di qualche nuova inchiesta, mentre il Fatto Quotidiano mette queste cifre corredate da nomi e cognomi, sindaci, governatori, consiglieri, esponenti del PD sul territorio. Ecco perché Renzi attacca i PM. È la nuova carica dei 101. Chi sono? Renzi attacca i PM perché il PD ha 124 tra indagati e imputati. L'elenco è lungo, dai presidenti di regione come De Luca e Pittella, ai consiglieri romani Coratti e Ozzimo, alla sarda Barraccio, fino ai sindaci come Virginio Merola a Bologna, l'eurodeputato Renato Soru. Insomma, pagina 6 e 7, il Fatto Quotidiano mette caso per caso questi 124 tra indagati o imputati del Partito Democratico. A proposito, non ci sono indagati, ma la notizia è abbastanza clamorosa anche perché coinvolge un paese storico, storico anche culturalmente, Brescello, la Brescello di Guareschi, la Brescello di Don Camillo e Peppone. È il primo comune dell'Emilia-Romagna che è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Brescello, del sindaco PD Marcello Goffrini, a questo punto ex sindaco, peraltro si era dimesso il 30 gennaio scorso perché stanco delle polemiche. Brescello sciolto per mafia. Il paese protesta, come racconta Repubblica con Giuseppe Baldessarro. Marchiati, marchiati per sempre. Brescello sarà ricordato come il primo comune dell'Emilia-Romagna sciolto per infiltrazione mafiosa. Decisione del Consiglio dei Ministri che nessuno però vuole accettare. Sono arrabbiati i brescellesi che l'andrangheta qui non l'hanno mai vista, percepita. Così dicono nei bar del centro, così dicono tutti, dall'ex sindaco Goffrini che si è dimesso il 30 gennaio stanco delle troppe polemiche, dal parroco Don Evandro Gherardi che domenica scorsa ha dato la prima comunione al figlio di Francesco Grande Aracri, fratello del boss Nicolino. E insomma Repubblica va a sondare gli umori, e sono gli umori anche dello stesso Don Evandro, che non ricorda certo il Don Peppone, Don Peppone, ho fatto l'unione, Don Camillo di Guareschi. Dice Don Evandro: le decisioni delle istituzioni vanno rispettate, non possiamo fare altrimenti, ma io questa cosa non la capisco e non chiedetemi di condividere certe scelte. Insomma, però Brescello finisce su tutti i giornali, il PD e l'andrangheta hanno rovinato il paese di Don Camillo, questo è il titolo per esempio di Libero, la triste fine di Brescello, Peppone a casa per mafia. Insomma, è chiaro che tutti rievocano anche la vicenda della celebre penna di Guareschi. Mentre per quel che riguarda le amministrative, siamo giunti alla puntata numero 2189 delle dimissioni, della rinuncia di Bertolaso, che è una storia già scritta. Io ve l'ho detto 20 giorni fa. 20 giorni fa, se mi siete testimoni, vi ho detto: guardate che è chiaro che Bertolaso si ritirerà, è solo questione di una manfrina trascinata per qualche giorno, e soprattutto la questione vera è come Berlusconi può comunicare questa cosa senza perdere la faccia, perché di fatto è un passo indietro dopo che Giorgia Meloni si è candidata, Salvini ha appoggiato la Meloni, e adesso Berlusconi, ma è chiaro che con i sondaggi in mano che danno Bertolaso, qualcuno dice al 6%, deve scaricare Bertolaso. Qualcuno pensava che fosse ieri la giornata giusta, anzi i giornali erano già pronti a titolare: Bertolaso fa il passo indietro. Berlusconi ieri l'ha chiamato. E caos Forza Italia, guardate qui il Corriere: Berlusconi verso la Meloni, poi ci ripensa. Ma la stampa è un po' più chiara. Roma, Berlusconi scarica Bertolaso che reagisce così: non merito tutto questo. Ora c'è il pressing di Forza Italia per convincerlo a ritirarsi dalla corsa al Campidoglio dopo il flop nei sondaggi. Anche il Messaggero, Guido e la notte del sacrificio. A un certo punto Bertolaso è andato da Berlusconi dopo aver detto: io non sono un politico, sono tranquillo, sono sereno, ho visto di peggio in vita mia, ma è andato da Berlusconi dicendo: sono nelle tue mani. Insomma, un'immagine che fa molto agnello sacrificale. La questione è Berlusconi, visto che è chiaro che Bertolaso lo scaricherà. Ora chi appoggerà? La Meloni, e in qualche modo facendo una bella retromarcia, oppure Alfio Marchini? Questo è il quesito per chi guarda a domani. Chi guarda oggi invece svegliandosi alle 5, io ho pensato: ragazzi, la sveglia anche oggi. Ma meno male che c'è l'Inter. Capella dalla bandierina, stacca Muñoz di testa, poi Taxini se la mette, secondo palo, arriva De Maio sul secondo palo. Genoa in vantaggio sul secondo palo. Secondo palo. Genoa 1. Mauro Meazza, buongiorno, come va? Buongiorno, buongiorno. Ma quindi non ho capito, scusami. Siamo allora, dietro, cioè, siamo dietro, siamo cioè dietro. Di Maio, cioè sì. Di Maio. De Maio. A De Maio, perché adesso si candida Mihajlovic per Roma, perché si è liberato per quello Mihajlovic. Sì, per no, può essere. Non sto capendo niente di questa vicenda delle elezioni romane, non mi stai aiutando, caro Alessandro. Vabbè. Comunque, buongiorno. Ti vorrei invece invitare a puntare l'attenzione sul decreto mutui di cui riferiamo, esatto, con dovizia di particolari e spiegazioni sulla pagina 3 del Sole 24 Ore, 2 e 3 del Sole 24 Ore, compreso anche di schedine per agevolare la lettura. Quindi che succede se non paghi le rate del mutuo, ad esempio 18 rate del mutuo, quindi hai tempo per redimerti in qualche modo, ma cambiano completamente le regole in attuazione di una normativa europea. Questo sul Sole 24 Ore di oggi. Oh, poi ti volevo dire, si sta pensando di incrementare un po' gli assegni pensionistici del futuro, mm-hmm, grazie alla copertura integrativa. Non so se hai avuto occasione di vedere, ecco. Il prestito, il famoso prestito. Ma ci sono diverse formule, però te le spiegano bene Davide Colombo e Marco Rogari. Naturalmente il tema è ancora tutto da decidere, un po' come quella vicenda che citavi prima dell'allenatore. Ah no, scusa, non dell'allenatore, del candidato. Brocchi. Faccio pasticci con Brocchi, con la minuscola, no? Con, sì, scusa, più o meno. Allora, ti voglio anche ricordare che oggi, essendo giovedì, è giovedì? Oggi è giovedì, sì. È giovedì e si gioca lo stesso una partita di calcio. Sì, Milan-Carpi. Ma per il Champions League? No, no, non per credo. Il campionato. No, noi in Champions League come voi non ci siamo. È stranissimo questo fatto che si giochi di giovedì. Comunque, oggi essendo giovedì c'è Casa 24 sul Sole 24 Ore. Ti invito a leggere, ad esempio, con attenzione l'aumento dei centri commerciali che è previsto appunto nel corso di quest'anno. Avrai visto, non ti sarà sfuggito questa iniziativa dell'antitrust a Google. Come no, certo. Ne riferiamo da par nostro nelle pagine di finanza, ma soprattutto ti vorrei invitare a leggere e a meditare religiosamente sempre sulle risposte che ci hanno dato i funzionari del catasto in occasione di un convegno che si è svolto ieri. So che tu magari non sei interessato e fai male, perché ad esempio ci sono le spiegazioni sulle nuove norme per le agevolazioni della prima casa. Trovi tutto nelle pagine di norme tributi che leggerai, dillo tu bene. Doviziosamente? Leggerai religiosamente. Tra l'altro, nelle pagine di norme tributi saprai anche che il Ministero dell'Istruzione ha diffuso la circolare per i premi del merito ai docenti. Adesso bisognerebbe anche distribuirli magari, ma ti rimando per questo alle pagine norme e tributi. Nel frattempo, tanti cari auguri per una serena serata. Grazie. E soprattutto traffico. Alessandro Milan, il Francesco Totti dell'informazione. Ecco, chissà il nostro Valerio Rocchetti lì a Roma, come sa il nostro tecnico di Roma, come sarà, come avrà, come dire, vissuto la serata di ieri. Il capitano, quando tocchi il capitano ti chiama e dice: oh, non toccare il capitano. Mamma mia, ragazzi, Francesco Totti, va bene. Allora, ragazzi, c'è una sentenza che di cui ieri riferiva peraltro Italia Oggi come notizia d'apertura, che oggi viene ripresa dai giornali, e riguarda il tribunale di Bergamo, dove è stato concesso il bonus bebè, previsto dalla legge di stabilità 2014, condannando l'INPS, è stato previsto anche per una straniera che ha un permesso di soggiorno non di lungo periodo, il permesso di soggiorno temporaneo. Libero, e anche il giornale Libero attacca: il bonus bebè per tutti, puntini puntini, gli immigrati. La sentenza di Bergamo che obbliga l'INPS a versare fino a 160 euro al mese per 3 anni a qualunque donna che partorisca nei nostri ospedali, anche se in possesso solo di un permesso di soggiorno temporaneo. Giulio Zannini oggi ne scrive non senza polemica, diciamo, come approccio sul Libero. Mentre, a proposito degli stranieri, io non so se voi vi ricordate, aveva vinto anche il premio Mani sul Volante qualche giorno fa la notizia dalla Svizzera di due studenti musulmani che erano stati esentati da una scuola dallo stringere la mano alla loro insegnante in quanto donna. Ebbene, c'è uno sviluppo di questa notizia. Ne riferisce oggi il Corriere della Sera, mezza pagina, pagina 6. Niente mano alle donne, e la Svizzera nega la cittadinanza. È vero, erano stati esentati dallo stringere la mano alla insegnante donna questi due studenti siriani di religione musulmana, ma questo perché le autorità, prese alla sprovvista, lo avevano scelto questo esonero temporaneamente. Ora però, dopo le polemiche, hanno deciso di mettere uno stop alla richiesta di naturalizzazione di questa famiglia musulmana. I ragazzi si rifiutano di toccare le maestre e la Svizzera nega la cittadinanza. Mi sembra sacrosanto, sacrosanto. Pagina 6 del Corriere della Sera. Per quel che riguarda la cronaca nera, che dobbiamo dire? Beh, il colpo di scena, se abbiamo seguito e se avete seguito la vicenda dell'infermiera di Piombino che rimane indagata per la morte di 13 pazienti del reparto di rianimazione dell'ospedale, l'accusa è terribile, quella di avere iniettato loro eparina in quantità tali da causare loro la morte. Ebbene, però, l'infermiera di Piombino è stata liberata, nel senso che rimane indagata, ma è libera. Il Tribunale del Riesame ha ordinato la scarcerazione della donna che è accusata della morte in ospedale di 13 pazienti. L'infermiera di Piombino è libera. Questo titola il Corriere della Sera. Lo faccio vedere anche in diretta su Facebook, sulla mia pagina pubblica. L'infermiera non è più killer, scarcerata. Beh, questo è il titolo di Libero, un po' azzardato. In realtà rimane indagata. Però, certo, lei stessa, arrivata a casa, dice: ormai mi hanno cucito addosso il vestito dell'assassina. Nell'articolo di Fabrizio Caccia, pagina 19 del Corriere della Sera: ora sarà difficile scucirmi di dosso questo vestito che mi hanno già messo. Il danno ormai è fatto. E dice lei: l'inchiesta ricominci da capo perché l'assassino, se c'è, è ancora libero. Questo invece è il marito, in realtà, che dice questa frase: il patto in famiglia, ora sempre uniti, guarderò tutti negli occhi. Certo, Fausta Bonino, dai titoli in cui è stata definita killer, ora è definita, si sa, indagata. Chi lo sa se è stata lei. Comunque, ci sono tanti articoli, non riesco a leggerli, ma questo sì, l'articolo della Carta Costa, che mi attirerà molte critiche, lo so, ma mezza pagina sull'addio al cane più longevo del mondo, il cane più vecchio del mondo. Come si chiamava? Matusalemme. Oh, guardate che... No, in realtà il cane Matusalemme si chiamava il pastore Maggie, con la sua padrona, è morta a 30 anni. Oscar Grazioli sul giornale dedica mezza pagina: il cane più longevo del mondo ci ha lasciati. Ma chi se ne frega!